perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 14 morti nel centro per disabili in California, ancora grande incertezza sul movente. Hanno perso la vita i due presunti autori della strage, moglie e marito. 355 sparatori in meno di un anno negli Stati Uniti. Putin torna all'attacco della Turchia, non se la caveranno con le sanzioni sui pomodori, la controaccusa di Erdogan e Mosca a fare affari col petrolio dell'ISIS. E dopo il voto di ieri notte la Gran Bretagna inizia a bombardare la Siria. 4 pensionati su 10 prendono assegni inferiori ai 1.000 euro al mese, a coloro che sono andati in pensione nel 2015, 3.000 euro in meno rispetto a chi ci è andato prima. Forte eruzione dell'Etna nella notte, la cenere arriva fino a Messina e Reggio Calabria, dove è chiuso l'aeroporto. Nuova ondata di fermi arresti per lo scandalo FIFA, 2 in manette tra le persone coinvolte, i presidenti della Confederazione Sudamericana e Nordamericana. Nessuno ha barato, dice intanto il presidente del CONI Malagò, sugli atleti italiani sospettati di aver aggirato i controlli antidoping. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, oppure potete scriverci su WhatsApp utilizzando il numero che vale anche per gli SMS, 349-238-6666. Molti gli argomenti, come avete sentito, bene, iniziamo dalla sparatoria avvenuta in California in un centro per disabili dove sono rimaste uccise 14 persone. Il servizio. Hanno fatto irruzione nel centro per disabili mentre era in corso una festa di Natale per i dipendenti. I killer, un uomo e una donna, volto coperto, armi in pugno, tute militari indosso, hanno aperto il fuoco ed ucciso almeno 14 persone, ferendone diverse altre. Poi Syed Farouk, 28 anni, cittadino americano di religione islamica, e Tashlim Malik, 27 anni, secondo alcune fonti marito e moglie, e genitori di una bimba di 6 mesi, sono fuggiti a bordo di un SUV, lanciando ordigni artigianali contro la polizia che li tampinava. Al termine dell'inseguimento sono stati uccisi. Un attacco pianificato, il loro, ha chiarito lo sceriffo, ma il movente resta ancora sconosciuto. Non si esclude il terrorismo. L'uomo era stato recentemente in Arabia Saudita, ma ci potrebbero essere risentimenti legati al lavoro dietro la strage. Farouk, infatti, era un ex dipendente del centro. Il presidente americano Barack Obama ha rivolto l'ennesimo appello al Congresso affinché si trovi una soluzione definitiva al problema delle armi facili. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E proprio della questione delle armi negli Stati Uniti torneremo a parlare nel consueto appuntamento da New York col nostro Mario Platero alle 13.45. Siamo adesso alle cronache dalla lotta all'ISIS e le tensioni internazionali che ne seguono. Iniziamo da Londra, che ieri ha dato il via libera ai bombardamenti sulla Siria e questa notte ha già iniziato. Yes, I can confirm that 4 British tornadoes. La conferma arriva direttamente dal ministro della difesa britannico Michael Fallon. L'offensiva britannica è cominciata e 4 jet tornado sono entrati in azione appena un'ora dopo il voto della scorsa notte, partendo dalla base di Cipro per bombardare 6 bersagli nei campi petroliferi di Omar, ad est della Siria, un'area sotto il controllo ISIS. Si tratta del primo raid britannico contro lo Stato islamico dopo l'autorizzazione dei comuni all'intervento militare in Siria, ottenuta con 397 sì e 223 no. In mattinata dal Norfolk si sono alzati altri 2 tornado e 6 tifoni. This is going to be a long campaign. La campagna militare sarà lunga per assicurarci che i militanti di ISIS siano scacciati dall'Iraq e sconfitti nell'est della Siria, ha aggiunto Fallon, spiegando che la Gran Bretagna è un alleato serio che ha risposto alla richiesta della Francia e delle Nazioni Unite di intervenire con il contingente della Royal Air Force per sopprimere questo terrorismo. L'obiettivo dei raid di oggi sono principalmente le infrastrutture petrolifere che finanziano ISIS, ma il primo ministro David Cameron ha giurato guerra direttamente alla stessa roccaforte siriana del califfato, Raqqa. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E come avete sentito, l'offensiva si muove sul fronte petrolifero. È proprio sul fronte petrolifero che c'è questo scambio di accuse tra la Turchia e la Russia di fare affari con ISIS. Oggi è tornato a parlare il presidente russo Vladimir Putin, attaccando duramente Erdogan e la stessa Turchia. E lo stesso Erdogan ha replicato il servizio. La Turchia si pentirà di quello che ha fatto. Tornano ad essere roventi i toni tra Ankara e Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin, durante il discorso alla nazione, è tornato ad attaccare la Turchia. Когда террористы получают постоянную финансовую подпитку. La Turchia è responsabile per la morte dei militari russi in Siria, ha detto Putin, riferendosi all'abbattimento del jet russo avvenuto al confine con la Siria. Inoltre Mosca ribadisce che Ankara sta aiutando i terroristi del califfato. Qualsiasi business criminale sanguinario è inammissibile, ha ammonito il presidente russo. Non si è fatta attendere la replica di Erdogan. Il presidente turco ha definito immorali le accuse rivolte a lui e al suo governo e secondo la France Press le ha addirittura ribaltate, dicendo a sua volta di avere le prove che sia in realtà Mosca a fare affari con i terroristi. Intanto si apprende che i negoziati per il gasdotto russo-turco Turkish Stream sono stati sospesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro sul quale torneremo più avanti per commentarlo ed analizzarlo nel corso della trasmissione. Parleremo anche di quello che sta succedendo in Libia, secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal Foglio questa mattina. Ci sarebbero delle forze speciali italiane sul terreno, pronte a preparare un intervento militare proprio del nostro paese. Veniamo però adesso ai dati diffusi dall'Istat sulle pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Una vera e propria fotografia sull'universo previdenziale, quella scattata dall'Istat sul 2014. La spesa complessiva per prestazioni pensionistiche supera allora i 277 miliardi di euro, con un aumento dell'1,6% sul 2013. L'incidenza sul PIL è cresciuta di 0,2 punti percentuali, ma la parte più interessante del rapporto trattamenti pensionistici e beneficiari è quella relativa al peso di ciascun assegno delle 23,2 milioni di prestazioni. Il 43% percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, un ulteriore 39,1 tra 1.000 e 2.000 euro, il 14,4 riceve tra 2.000 e 3.000 euro, mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 6,1%. Esiste una ristretta porzione di beneficiari definiti super pensionati. Si tratta dello 0,1% del totale, pari a 13.000 persone che nel 2014 hanno percepito un reddito da pensione oltre i 10.000 euro mensili. In totale i pensionati con più di 5.000 euro al mese sono 230.000. Un ultimo dato, Simone, molto interessante: i nuovi pensionati sono di fatto più poveri. Il reddito medio di chi ha iniziato a ricevere la pensione nel 2014 è inferiore infatti a quello di chi nel 2013 percepiva già almeno una pensione. La differenza è di oltre 3.000 euro annui. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta, che ci aiuterà a fare un ulteriore punto su questi dati più avanti nel corso della trasmissione alle 13.35 nella seconda parte del programma. La giornata economica però è importante soprattutto per le decisioni che prenderà la Banca Centrale Europea, che potrebbe ampliare l'intervento per fornire liquidità all'economia. Oggi i mercati sembrano ben intonati, anzi sono decisamente ben intonati: più 1,23% il FTSE MIB, più 1,11% il FTSE OSHA, Parigi che guadagna l'1,27, Francoforte lo 0,91, ma per sapere che cosa potremmo aspettarci da Draghi oggi ci colleghiamo con Francoforte e col corrispondente del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Manca poco più di mezz'ora, alle 13.45 per l'esattezza, la BCE ci dirà cosa intende fare sui tassi di interesse. Questo è un annuncio che per molti mesi non è servito granché, perché i tassi sono rimasti fermi. Oggi ci si attende che la BCE abbassi nuovamente il tasso sui depositi che le banche hanno presso la BCE stessa, quindi le banche di fatto pagano per tenere depositati i soldi presso la BCE. Adesso questo tasso è negativo per 20 punti base, quindi meno 0,20, si prevede che la BCE lo tagli di almeno altri 10 punti base per cercare di indurre le banche a mettere in circolo questa liquidità che la BCE fornisce. Poi alle 14.30 conferenza stampa di Draghi, dove potrebbe annunciare, anzi è atteso che annunci altre misure, soprattutto il cosiddetto QE2, cioè un ampliamento dell'acquisto dei titoli che già la BCE sta facendo al ritmo di 60 miliardi di euro al mese. Potrebbe essere un aumento dell'importo mensile oppure un allungamento dei termini, o entrambe le cose. Non solo, ma Draghi, come spesso fa, potrebbe riservare qualche sorpresa a noi e ai mercati. Allora Alessandro, io nel frattempo ti ringrazio e poi torneremo a collegarci con te non appena avremo la decisione, quindi subito dopo America 24, subito prima della chiusura di Effetto Giorno. Veniamo alla cronaca italiana, innanzitutto una notizia che arriva dalla Guardia di Finanza di Rimini. Armando Arcangeli, fondatore della Valle Verde, agli arresti domiciliari nell'ambito di un'operazione chiamata Broken Shoes, ossia scarpe rotte, del nucleo di polizia tributaria della Finanza di Rimini, che ha portato anche a sequestro dei beni per 19 milioni di euro. Per la Guardia di Finanza e per la procura che indaga si sarebbe appropriato indebitamente di 9 milioni di euro. Ai domiciliari anche l'ex direttore generale della celebre casa produttrice di scarpe, un consulente finanziario e imprenditori bresciani. Sequestri di denaro e società anche a San Marino, Milano, Brescia e Mantova. Veniamo alla forte eruzione dell'Etna di questa notte, la cenere che arriva anche a Messina e Reggio Calabria, dove è stato chiuso l'aeroporto. Letizia Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. L'Etna sì, è tornata a farsi sentire e soprattutto vedere. La notte scorsa sono stati forti boati e soprattutto fontane di lava spettacolari, fino a un chilometro di altezza, dicono gli esperti degli NGV che continuano a monitorare il vulcano. L'Etna da 20 giorni ha ripreso la sua attività, ma chiaramente in maniera più debole. Questa notte intorno alle 3 invece, diciamo, si è raggiunto il clou dell'attività tipicamente stromboliana. Dalle prime, insomma, dall'alba i venti hanno anche trasportato verso nord la gigantesca nube di cenere che si è formata coprendo tutti i territori ionici, appunto fino a Messina e Reggio Calabria. Qui a Reggio Calabria in mattinata è stato chiuso anche l'aeroporto in attesa appunto che la nube si sposti ancora, cosa che invece non risulta ancora per quanto riguarda Catania. I disagi si hanno anche sulla circolazione, sulle strade, dunque anche attenzione per i ciclomotori, perché la cenere vulcanica ha ricoperto molte strade dell'Interland Etneo fino a Messina appunto. Per il momento è tutto, non ci sono altre novità rispetto a stanotte. Naturalmente l'attività si è indebolita. Ti ringrazio, grazie a Letizia Carrara per questo aggiornamento. Noi siamo alla politica, mentre proseguono le trattative per l'elezione di 3 membri della Corte Costituzionale, proseguono anche quelle, tutte interne alle coalizioni e ai partiti, sui candidati alle amministrative. Per il momento il focus è prevalentemente su Milano. Da una parte l'ex commissario di Expo Giuseppe Sala, appoggiato da Matteo Renzi, dall'altra Francesca Balzani, sostenuta dal sindaco uscente Pisapia. Si infiamma la competizione nel centro-sinistra per le amministrative a Milano, mentre si profilano primarie vere, aperte, coinvolgenti e partecipate. Così infatti è scritto nella nota dei democratici diffusa ieri al termine dell'incontro al Nazareno tra il premier Renzi, vice Guerini e Serracchiani e l'attuale sindaco Pisapia, accompagnato dalla vice Balzani. Quest'ultima ancora non scioglie la riserva sulla sua candidatura, ma di fatto scalda i motori e oggi torna a rivendicare la propria esperienza politica, sottolineando con una punta di veleno come la partita per Palazzo Marino attragga già molti manager, pur non trattandosi di un CDA, mentre Pisapia apprezza il percorso delle primarie indicato dal premier, che di fatto significa che non è stato imposto un nome. Sala intanto si prepara, ma anche lui non scioglie la riserva, lo farà a fine dicembre al termine del suo incarico in Expo, ma lascia intendere di essere in campo. Sono molto interessato alla città, dice, senza risparmiare una frecciata alla Balzani. Forse Renzi l'ha incontrata perché non la conosceva bene, a me mi conosce bene. Il duello, insomma, è già cominciato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport e alla giustizia, partendo da una vicenda tutta penale, quella di Oscar Pistorius. Si aggravano le accuse per l'atleta sudafricano. Sentiamo. Le sorti di Oscar Pistorius pendono per la seconda volta dalle labbra del giudice Thokozile Masipa. La togata sudafricana ad inizio del prossimo anno dovrà rendere effettivo il verdetto odierno della Corte Suprema d'Appello, che ha condannato il campione paralimpico per omicidio volontario della fidanzata Riva Steenkamp, uccisa con 4 colpi di pistola la notte di San Valentino del 2013. Qualsiasi persona razionale avrebbe dovuto prevedere che sparando 4 colpi di pistola in una toilette avrebbe ucciso. Così il giudice Eric Leach ha motivato la sentenza, ribaltando il verdetto di primo grado che aveva condannato Pistorius per omicidio colposo. L'atleta sudafricano, che si trova ora ai domiciliari per buona condotta, ha già trascorso un anno in carcere, ma a seguito del nuovo verdetto rischia 15 anni di reclusione, la condanna minima in Sudafrica per omicidio volontario. Lorenzo Simoncelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bloemfontein, Sudafrica. A proposito di atletica, tra poco nella seconda parte della trasmissione torneremo su queste accuse che hanno coinvolto gli atleti italiani. Si parla di aggiramenti dei controlli antidoping per 26 persone, ma intanto il tema dello sport e della giustizia ci porta ancora una volta a parlare della FIFA, perché questa mattina c'è stata una nuova operazione di polizia condotta in Svizzera, due arresti, una serie di persone che sarebbero coinvolte, tra cui il presidente della Confederazione Sudamericana e il presidente della Confederazione che comprende il Nord e Centro America e i Caraibi, quindi praticamente tutto il continente. Ci colleghiamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa rappresenta questa nuova fase dell'inchiesta? Diciamo che dal punto di vista giudiziario è una propaggine dell'inchiesta di maggio, in larga parte annunciata dall'FBI, si tratta di arresti che la procura svizzera ha fatto proprio su mandato dell'FBI, che coinvolgono una decina di alti dirigenti prevalentemente delle confederazioni americane, quindi America del Nord, Centro America e Sud America, per vicende insomma di corruzione, mazzette, vendita sotto costo dei diritti TV, quindi con giri di denaro e riciclaggio, quindi come vedi capita accusa sono i più variegati, ma erano in qualche modo attesi. Senz'altro questo rappresenta un segnale molto preoccupante in vista di quella che dovrà essere invece la decisione del comitato etico della FIFA su Platini e Blatter. Per entrambi è stata chiesta la radiazione e tra pochi giorni è attesa questa decisione, che potrebbe cambiare completamente lo scenario del 26 febbraio, quando si dovrà eleggere il nuovo presidente dell'organo di governo del calcio mondiale. Grazie Marco Bellinazzo per questo aggiornamento e per questa spiegazione su questa nuova fase dell'inchiesta. Adesso c'è il traffico, noi ci ritroviamo tra poco, torniamo a parlare delle notizie che arrivano dall'estero oggi, dai fronti di tensione internazionale, dai bombardamenti britannici, anche dalle ipotesi che l'Italia intervenga militarmente in Libia. Poi toccheremo l'altro fronte che incrocia diritto penale e sport, che è questa inchiesta sull'aggiramento dei controlli da parte degli atleti italiani, e infine parleremo di scuola, perché è stato presentato oggi, è pubblico ad oggi, la nuova edizione di Eduscopio. Cos'è? È uno strumento per scegliere la scuola superiore per i propri figli. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 14 i morti nel centro per disabili in California, ancora grande incertezza sul movente, morti due presunti autori della strage, moglie e marito, sono state 355 le sparatorie in meno di un anno negli Stati Uniti. Putin torna all'attacco della Turchia, non se la caveranno con le sanzioni sui pomodori, la controaccusa di Erdogan, è Mosca a fare affari col petrolio dell'ISIS, la Gran Bretagna intanto inizia a bombardare la Siria. 4 pensionati su 10 prendono assegni inferiori ai 1.000 euro al mese, a coloro che sono andati in pensione nel 2015, 3.000 euro in meno rispetto a chi ci è andato prima. Nessuno ha barato, dice il presidente del CONI Malagò, sugli atleti italiani sospettati di aver aggirato i controlli antidoping. Di questo torneremo a parlare tra un attimo con il nostro Dario Ricci. Intanto saluto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Con te per fare il punto un po' su tutto quello che si muove in queste ore intorno alla lotta all'ISIS, da una parte i britannici che iniziano a bombardare, dall'altra questo fronte di tensione aperto e anzi apertissimo, che se vogliamo Alberto sfiora la farsa con questo scambio di accuse reciproco sul fare affari col petrolio dell'ISIS tra Mosca e la Turchia. Qual è la tua visione e la tua idea? Ma la mia idea è che in realtà il petrolio, lo scambio di petrolio, il contrabbando di petrolio sia in realtà il tentativo di cercare un casus belli, nient'altro. Il petrolio prodotto oggi dal califfato, ma forse sarà 10, 12 mila, 15 mila barili al giorno, tenete presente che è da parecchio tempo che si bombarda da quelle parti, quindi non è un fattore così incisivo, forse lo era qualche mese fa o l'anno scorso, ma adesso obiettivamente non lo è. Il petrolio dal califfato lo prendono i turchi come lo prende lo stesso Assad, perché, ma non è questo il fattore importante, è come guardare il dito per indicare la luna. Cioè, la verità vera è che qui siamo di fronte a un conflitto che non è solo contro il califfato. Questa è una guerra molto più vasta, è una guerra che è iniziata come un conflitto per procura contro Bashar Assad, ma in realtà contro l'Iran dal fronte sunnita. E dopo l'accordo internazionale con l'Iran, questo conflitto è diventato ancora più importante. L'ingresso poi della Russia in campo lo ha trasformato, come avrebbe detto, come direbbe Papa Francesco, in una sorta di guerra mondiale a pezzi. La tensione tra la Turchia e la Russia è destinata a permanere. Guardate un po' quale insuccesso ha avuto la mediazione di Obama a Parigi. Ma perché? Perché lo sanno tutti che questa Turchia da 4 anni sostiene i jihadisti e poi ha sostenuto il califfato. Sono su un fronte opposto, combattono non contro l'ISIS, ma combattono contro i curdi, contro altri. Quindi queste due coalizioni, perché sono due, che combattono contro il califfato, hanno in realtà sì un nemico comune, ma scopi e obiettivi ben differenti. Alberto, parliamo adesso di Libia. Il Presidente del Consiglio Renzi nei giorni scorsi ha detto il prossimo fronte, ed effettivamente probabilmente è così, ma non perché lo abbia detto Renzi, ma perché era nelle cose. Oggi tornano a circolare indiscrezioni, le pubblica Il Foglio, secondo le quali ci sarebbero uomini delle forze speciali italiane sul terreno in Libia che starebbero preparando l'intervento militare. Tra l'altro a metà dicembre ci sarà a Roma proprio la conferenza sulla Libia. Da questo punto di vista, che cosa credi che possa succedere? Ma vedo già quello che è accaduto, al di là delle indiscrezioni su eventuali forze speciali italiane sul campo, non si capisce però dove, in Tripolitania o in Cirenaica. Qui sta succedendo qualcosa di molto preoccupante, perché le ultime notizie danno un'avanzata dell'ISIS, cioè del califfato, dalla Sirte verso Agedabia. Agedabia è la porta di Bengasi, praticamente l'unica città che c'è in mezzo. Una volta che fosse presa Agedabia, ecco che si apre la porta per il califfato per Bengasi, dove le milizie islamiche, dei jihadisti, si unirebbero ad altri jihadisti, quelli di Ansar al-Sharia. A quel punto, anche per il generale Haftar, il generale di Tobruk, sostenuto dagli egiziani, forse verrebbe il momento di fare le valigie, e addirittura la Cirenaica potrebbe in buona parte cadere nelle mani del califfato. Questa è la situazione, assai preoccupante, e sulla quale si fa poco dal punto di vista internazionale, o quasi nulla. Poi pensare che bussando alla porta dell'Italia si risolva la faccenda libica, sì, noi abbiamo un interesse primario, ma non possiamo essere soltanto noi a intervenire. Grazie ad Alberto Negri, come sempre, per le sue analisi puntuali. Un paio di aggiornamenti che vi devo dare. Il primo riguarda un'inchiesta, o quantomeno le perquisizioni che stanno avvenendo in queste ore nella sede di IVU Bank, la banca online del gruppo UBI Bank, perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza. Un'inchiesta diretta dalla Procura di Milano coinvolge alcuni dipendenti dell'azienda che sono indagati per reati gravi, tra i quali riciclaggio e autoriciclaggio. Questi al momento sono gli scarsi dettagli che abbiamo. L'altra notizia riguarda l'annuncio arrivato pochi istanti fa dall'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, che ha fatto sapere che la quotazione di Ferrari alla Borsa di Milano è prevista per il 4 gennaio dell'anno prossimo, del 2016, quindi tra circa un mese. Questo l'ha detto in conferenza stampa. Veniamo adesso, come annunciato, alla vicenda degli atleti italiani sospettati di aver aggirato i controlli antidoping. Nessuno ha barato, dice oggi il presidente del CONI Malagò. Abbiamo in studio con noi il nostro Dario Ricci, che ci aiuta a capire un po' meglio come sono andate le cose da questo punto di vista. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Vicenda sicuramente, hai parlato di borsa, quindi direi che le azioni della nostra atletica sono decisamente in ribasso. Vicenda complessa anche dal punto di vista tecnico, perché in realtà quello su cui si discute al momento chiaramente non è la provetta che testimonia l'assunzione di doping. Boeing, quindi non ci troviamo di fronte a questi casi. Quello che viene contestato a questi 26, che sono di fatto i campioni di punta della nostra atletica, è quello di non aver correttamente comunicato la loro reperibilità. La reperibilità è il passo fondamentale per poi poter effettuare dei controlli a sorpresa antidoping e quindi dei controlli che siano effettivamente efficaci, perché la casistica testimonia che quelli più efficaci sono esclusivamente di fatto quelli a sorpresa. Cioè, ti dico dove sono esattamente in quella giornata, in maniera che se tu devi farmi un controllo mi trovi là. Questa infatti, è la sostanza. Infatti, e loro non hanno comunicato. Esattamente, non avrebbero comunicato questo e quindi dopo una serie di mancate comunicazioni, queste mancate comunicazioni vengono equiparate a un controllo saltato e quindi scattano il meccanismo di squalifica. Ora si discute, e come ha sottolineato il presidente del CONI Malagò e quello della Federatletica Giomi, sul fatto che effettivamente ci sia una incongruenza di carattere tecnico gestionale nel sistema che raccoglie queste segnalazioni da parte degli atleti, e rispetto a quelle mail, sembra addirittura un milione di mail che pure gli inquirenti hanno analizzato per poi arrivare a questi deferimenti, cioè non ci sia una corrispondenza tra le segnalazioni fatte da alcuni atleti e questi avvisi, questi warning che arrivavano invece dalla segreteria della Federatletica. Quindi in sostanza gli atleti avrebbero potuto segnalare, ma sì, poi la segnalazione della loro presenza non veniva girata dalla segreteria della Federazione, sì, diciamo, agli organi così preposti al controllo. Esattamente. Oppure le stesse mail che partivano da questa dalla FIDAL, dalla Federatletica, non tenevano conto magari dell'avvenuta segnalazione da parte degli atleti. Ora, chiaramente entriamo molto nel tecnico, è pur vero che è un ragionamento che tende all'ipercorrettismo, no? Perché un atleta professionista che fa atletica leggera, che è consapevole del tema doping, beh, fossi io, sarebbe il primo pensiero che avrei la mattina, no? Quello di comunicare la mia reperibilità proprio per fugare qualsiasi dubbio. L'intera vicenda testimonia comunque di un clima di lassismo, quantomeno di noncuranza, diciamo di sciatteria diffusa nella migliore delle ipotesi, e nella peggiore è quello l'humus su cui poi attecchisce il vero e proprio doping, insomma. Ti ringrazio, grazie al nostro Dario Ricci, mi sembra che siamo riusciti anche a chiarire bene, perché questa mattina anche da qualche titolo di giornale ci sembrava che 26 atleti di punta fossero tutti dopati, mentre invece appunto non va tutto verificato in tribunale, probabilmente c'è stato un incrocio sbagliato di database per certi aspetti. Aggiungo Dario solamente un'ultima cosa: in sede di prima contestazione di convocazione, molti atleti, non sapendo qual era il motivo preciso della convocazione, non sono andati di fronte al procuratore con tutta la documentazione necessaria, quindi probabilmente alcuni dei 26 riusciranno, lo speriamo per loro e anche per il nostro sport, a produrre in occasione della seconda convocazione almeno parte della documentazione mancante nella prima. Speriamo che sia così, grazie al nostro Dario Ricci. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione torneremo sul tema delle pensioni e poi parleremo di scuola, della scelta delle scuole superiori per i nostri figli. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le nostre notizie principali: Putin torna all'attacco della Turchia e dice non se la caveranno con le sanzioni sui pomodori. Erdogan contro accusa e Mosca a fare affari col petrolio dell'ISIS. 14 morti nel centro per disabili in California, ancora grande incertezza sul movente, hanno perso la vita anche due presunti autori della strage, moglie e marito. Sono state 355 le sparatorie in meno di un anno negli Stati Uniti. 4 pensionati su 10 prendono assegni inferiori ai 1000 euro al mese, i dati sono stati diffusi oggi dall'Istat. La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni nelle sedi di IV Bank, la banca online del gruppo UBI Banca. Si parla di reati gravi come riciclaggio e autoriciclaggio. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presento. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E il punto che vogliamo fare adesso è ancora sui dati diffusi questa mattina dall'Istat sulle pensioni e torniamo dal nostro Vincenzo Miglietta che ce li racconta un po'. Vincenzo, eccoci. Sì, di nuovo buongiorno. La parte più interessante del rapporto, Simone, trattamenti pensionistici e beneficiari dell'Istat, è quella relativa al peso di ciascun assegno delle 23,2 milioni di prestazioni erogate ogni anno. Il 43,3% percepisce allora un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, un ulteriore 39,1% tra 1.000 e 2.000 euro. Il 14,4% riceve tra 2.000 e 3.000 euro, mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 6,1%. Esiste una ristretta porzione di beneficiari definiti superpensionati. Si tratta dello 0,1% del totale, pari a 13.000 persone che nel 2014 hanno percepito un reddito da pensione oltre i 10.000 euro mensili. In totale i pensionati con più di 5.000 euro al mese sono 230.000. E un ultimo dato molto interessante: i nuovi pensionati sono di fatto più poveri. Il reddito medio di chi ha iniziato a ricevere la pensione nel 2014 è inferiore infatti a quello di chi nel 2013 percepiva, Simone, almeno una pensione. La differenza è di oltre 3.000 euro annui. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Adesso ci occupiamo di scuola perché è stato reso pubblico oggi il nuovo rapporto, è tradizionale, viene realizzato ogni anno dalla Fondazione Agnelli, che si chiama Eduscopio. È un progetto con il quale si vogliono aiutare le famiglie nella scelta delle scuole superiori per i propri figli. È tutto su internet, basta andare su eduscopio.it e si trova la possibilità di confrontare e vedere quali sono le scuole migliori. Adesso non stiamo qua evidentemente a farvi la classifica perché poi sono suddivise per singolo ambito, per così dire, però abbiamo chiesto quali sono i criteri ad Andrea Gavosto, che è il direttore della Fondazione Agnelli. Prendiamo tutti gli studenti del primo anno, iscritti al primo anno di università provenienti da quella determinata scuola e costruiamo un indice basato sulla media dei voti e sui crediti ottenuti, cioè la velocità con cui sono stati dati gli esami rispetto a quelli che si potevano dare il primo anno. Quindi la media di tutti gli studenti diplomati nella scuola X ci dà questo indice che noi poi pubblichiamo sul portale eduscopio.it. E là è su quel portale Eduscopio che poi i genitori ed eventualmente appunto anche i ragazzini che si preparano ad andare a scuola possono verificare quali, come dire, qual è la qualità anche delle scuole che hanno intorno. Tra l'altro quest'anno a Milano abbiamo visto che in cima alla classifica c'è una scuola paritaria, non una scuola pubblica. Sì, l'Eduscopio riguarda sia scuole paritarie che scuole statali, diciamo, giustamente perché sostanzialmente la scelta dei genitori si può ampliare anche alle scuole paritarie, in particolare a Milano, devo dire già l'anno scorso, quella scuola ha avuto degli ottimi risultati del Sacro Cuore, quindi risulta molto buona. Ci dà qualche elemento interessante dall'analisi emersa quest'anno? Ci sono novità particolari? Ma guardi, in generale le graduatorie sono molto stabili, diciamo che il 90% delle scuole cambia al massimo di una posizione in su e in giù, che da un lato è rassicurante per noi perché significa uno strumento affidabile, dall'altro forse era prevedibile perché è chiaro che la qualità di una scuola in termini di preparazione all'università, di studi universitari, non può cambiare radicalmente nel giro di un anno, però quindi diciamo, il fatto che ci sia stabilità è buono. Il dato meno buono è che abbiamo notato un forte calo dell'iscrizione all'università da parte degli studenti, dei diplomati degli istituti tecnici, ed è un calo importante, parliamo del meno 20% nell'arco di due anni, che è preoccupante perché evidentemente significa che la crisi economica costringe le famiglie, soprattutto in quel tipo di indirizzo, a rinunciare a una prospettiva di studio universitario e i ragazzi si cercano subito lavoro. È arrivata la decisione della BCE che ha deciso inaspettatamente di lasciare i tassi invariati, ne parliamo subito dopo il traffico e Mario Platero, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore.